Jumalauta vähän. Supercard Joy 185 on Overcast Alpha. Yeah. Sé que nunca conté a nadie, o a nadie. Me vuelvo loco solo de pensar que nunca volará sin aire. Cuando lo tengas claro, llámame a la puerta y si no estoy cansado, te diré dos cositas a ver si lo has pillado. Si me pones en duda estaba equivocado. Que alguien solo sabía de cimiento porque no le hacía caso a nadie. Menos mal que somos el plumero, este es el ser tan ignorante. Y cuando lo tengas claro, llámame a la puerta y si no estoy cansado, te diré dos cositas a ver si lo has pillado. Si me pones en duda estaba equivocado. Si sabrás que mi anochecer ya no cabe ninguna estrella. Si quieres brillar, vete a algún lugar donde enciendan tu vela. No sé si sabrás que mi anochecer ya no cabe ninguna estrella. Si quieres brillar, vete a algún lugar donde prendan fuego a tu vela. Donde prendan fuego a tu vela. Y si no estoy cansado, te diré dos cositas a ver si lo has pillado. Si me pones en duda estaba equivocado. No sé si sabrás que mi anochecer ya no cabe ninguna estrella. Si quieres brillar, vete a algún lugar donde encienda tu vela. No sé si sabrás que mi anochecer ya no cabe ninguna estrella. Si quieres brillar, vete a algún lugar. Enciendan tu vela. No sé si sabrás que mi anochecer ya no cabe ninguna estrella. Si quieres brillar, ven a algún lugar donde enciendan tu vela. No sé si sabrás que mi anochecer ya no cabe ninguna estrella. Si quieres brillar, ven a algún lugar donde prendan fuego a tu vela. Donde prendan fuego a tu vela. Ok, mi butto io, buonasera, benvenuti all'Opencast Alpha, puntata numero 28. 12 fratto 3. Era veramente meglio del triello di Sergio Leone, che scena epica. Chi si butta a parlare per primo? Il brutto, il buono e il cattivo che sono rimasti qua. Ma cazzo te ne frega, tanto non ti vede nessuno. Vabbè, ho capito, ma siamo dietro. Ma ho dei fans. Hai dei fans? Anche delle fans. Ma dei fans scritto come? Devi scritto... Ventole. F-A-N-S W-R X-W-R. Sì. Penso si pronuncia la sigla di qualche modo. X-W-R. X-R-V. X-R-V, sì. E salutiamo quindi Honda Motors. C'è da spostare una macchina. È un diesel. Il signor Suzuki è pregato di spostare la sua Honda perché dà fastidio di fronte al concessionario Kawasaki. Sprona il mio amico Atsu. Non volevamo fare pubblicità occulta, ma volevamo parlarvi, abbiamo Dai cominciato azzi. Con il Giappone, perché si è verificato un fatto veramente interessante e sollevante in questi, cosa è successo? In questi ultimi giorni. Questo non lo so. Come non lo so? Cioè, era bello partire così, no? Era bello partire così. Sono ripartite le centrali atomiche e adesso hanno installato Linux. Ah, me sembrava bello invece partire dicendo che Opencast Alpha l'ho già detto, 28, puntata numero 20, l'ho detto, così, non eri attento. 27 puntate, il programma pseudo tecnologico del GL Como. Non è meglio cambiare? www.gl-como.it. Iscrivetevi al forum. Iscrivetevi al forum. Diamine. Vabbè. Quelle cose lì, insomma. O la www.gl-como. Ricordatevi la parte punto. http://. Ma quali sono le notizie di questa magnifica puntata? Abbiamo un sacco di notizie stasera oggi. Ci sono delle notizie veramente, guarda. Sì, parleremo di fai un beep. Galleria beep. Sono in galleria veramente. Beep. Parleremo di tallone e Achille. Allora, che sono veramente. Parleremo di quella grandissima principalmente di e poi quell'altro brutto di tuo marito. L'altra sera l'ho visto che se ne andava con quell'altra grandissima di tua sorella e poi la distribuzione che ecco. Ok, qua ci voleva. No, parleremo di Bubuntolo e di Firefox Sizzamelo. Ne abbiamo già parlato settimana scorsa. Ma adesso puoi installarlo. Ah sì? Sì. Si compra? Cioè, no, c'è un si mangia. Chi è che lo pagherebbe? Nel senso, un pezzo da 20, grazie. C'è una guida per installarlo su Ubuntu. Penso. Ma a proposito di software a pagamento, qualcuno poco fa ci informava del fatto che un software storico a me vengono 2 euro. Non verrà più sviluppato su Linux. No. Che software? Facciamolo dire all'interessato. No, cioè Nero Burning Rom. Ah. Ma veramente c'era una cosa che si chiamava Nero? Ma c'era Nero Burning Rom su Linux? Nessuno lo sapeva, infatti, per quello che infatti hanno smesso di svilupparlo perché non lo sapevano neanche loro. Ma girava con Wine. No, era nativo, tra l'altro. Sì, barcollava, infatti, girava con Wine. Barcollo. sì, quelli che girano con Wine alla fine barcollano un po' tutti. Ma dobbiamo smettere questa storia di trasformare l'acqua. Ecco, per non parlare della moltiplicazione dei pani e dei pesci. A proposito di news, Android X86 Ice Cream Sandwich è arrivato alla seconda release candidate. Sì, infatti, ancora un cazzo. Però è la seconda RC, fanno passi da giganti. Intanto è uscito Jelly Bean, ma non è un problema. Ho letto in giro che Jelly Bean supporta i dispositivi USB esterni, è vero? Ma lui li vede? Ho letto in giro così. Ma lui ti dice ci sono, ma quindi potrò installare Android sul mio Xbox. Dispositivi audio USB esterni. No, da quello che se proprio devi, sito. Con PayPal, sostanzialmente, cioè, fa delle donazioni, ma non è obbligatorio portarle così. Grazie. Non lo so, prego, si figuri. Ci va su un Pentium 3? Perché no? Ho bisogno tipo dell'SS4. Ma cambiamo notizia, cambiamo argomento. Volevamo fare un elogio al browser mobile Chrome. tu volevi farlo, fare un elogio perché pagato. Perché devo dire che è davvero avanti anni luce confronto al browser che mi avevano inserito di default nel mio telefono. Che non è un telefono. Ma che telefono è? Vabbè, non facciamo nomi. Ma è uno di quelli liberi, vero? L'hanno morsicato. Ma ho capito. Cioè, tu sei venuto qui con quel telefono. Allora, prendere una cosa già libera era troppo facile. Allora la vuoi liberare? Ho preso uno, ho detto adesso ti libero io. Infatti l'ho portato a casa dopo mezz'ora, l'ho liberato. L'ho fatto uscire di prigione. L'ha chiamato Willy. Così ha potuto gridare Free Willy. Ho capito, okay. Capito. E però, nel senso che l'hai messo sul davanzale e hai detto vai, sei libero. Aveva una mappa tatuata sul corpo. Anche se non rompete la prigione. E comunque Chrome insomma Chrome, ma c'è anche per Android ovviamente. È davvero un browser molto valido. Tra l'altro Chrome in Jelly Bean è il browser di default. Sarà il browser, cioè, di default. Si chiama browser ma in realtà è lui. Vedete, è lui. Fanno loro, nel senso. Lo fanno loro e quindi allora come la mettiamo? La vera domanda è perché fino adesso non c'è. Infatti, non ho detto che c'è sempre stato. Sì, no. Ma quello di default. E che problema c'è? Allora. Mi spacco la faccia? Dai. Allora, no, non posso. Con questa musica che abbiamo sotto stasera, Manolito dei Boom Boom Beckett a farci da boom, base. Boom, batti cuore, boom boom. Ma dove la prendiamo tutta questa musica? Dallo spacciatore il solito? Dal nostro solito spacciatore all'angolo, Giamendo. Giamendo, aspetta, ho sentito come una voce. Fatality. Fatality. Ah, certo, sì, sì, sì, lo spacciato. Sì, questo è lo spacciatore che è lo spacciatore di suoni. Quando non lo paghi, ti invita a fare. Esatto, stasera una in studio abbiamo una figura che era da un po' di tempo che mancava in Opencast, ossia il rumorista. Ah, ed è il attrezzatissimo. Il rumorista con questo, mai. Esatto, attrezzatissimo con moderna tecnologia, ci delizierà per tutta la serata. Facciamo con rumori buttati a cazzo. A sentiamo, sentiamo un intervento del rumorista. Vai. Ecco, perfetto. Ah, bene, rumorista. Lo chiameremo Rintintin. Si è appena toccato una coscia da solo. Certo, una coscia. E questo era il suono. Esatto. Ma a proposito di Android, lo sapete che LibreOffice sta facendo passi da gigante per la visualizzazione dei documenti su Android? Non deve essere facile, perché comunque non è un bel facile programma. Complicato. Abbastanza complicato. Facile, no. Farlo girare sotto un coso Android. E sempre a proposito di Android, che potrebbe essere il tema della serata, abbiamo anche una news favolosa, con tutti gli HTPC che stanno uscendo, tutti quei PC piccoli da $99, lo voglio, $89, $79, voglio, $69, alza. Ancora meno. Alza, perché io ne ho visto uno col Tegra 3 a $120, voglio quello. Sta per uscire, attenzione, XBMC. Ah, per la release ufficiale per Android. Applausi per lui. Allora forse vi siete persi anche un'altra notizia. OMG. C'è un programmino, diciamo un pacchettino .deb, che vi permette di installare PS3 murcacchio, il visualizzamolo della PlayStation. La XMB, Cross Media Bar. No, qualcosa dopo. Ma è un server locale per streamare dalla Play? No. Che cavolo è? Una mucca con dentro tutto il visualizzatore della Play. Questa è una mucca. Una mucca. Tipica mucca. 5. Mucca. Se non fosse chiaro quest'ultimo passaggio, vi invitiamo a scriverci o a visitare il nostro sito come al solito. E quando Loris non è colpa mia. Quando tra 25 anni saremo famosi, vi ricorderete di queste puntate, ragazzi. Dove, quando faranno un documentario su di noi sottotitolato in bulgaro e in lingua tedesca. Però noi le cancelleremo da internet. Assolutamente. E soprattutto, avete presente quando abbiamo parlato qualche settimana fa della console Android based? Stasera è vero. Android, è vero. Oh yeah. Yeah, quella boxina bellissima, $99. Esatto, sapete che ha raccolto 4.3 milioni di dollari su Kickstarter? Guarda come lo dici, me lo puoi ridire? 4? Ha raccolto 4.3 milioni di Sembra dollari. Sembra quasi una versione di Android 4.3. Soon. Coming soon, veramente. Avevano come un Previously on Opencast. Un milioncino? 4.3. No, ma ne volevano tirare su uno. Volevano un milioncino e gli è andato in una barcata. Bene, molto bene, molto. Il problema, hanno detto consegna prevista 2030. Sì, giusto in tempo dopo Colonia. Sì, tanto dopo... nel frattempo l'hardware impiegato sarà tipo vetusto. Come al solito. No, io ho sentito invece che è uscita la versione 14 di... che sono pronti con la versione 14 di Firefox e Thunderbolt. Sì, dopo sono usciti, ma... 3 o 4 così. Quante settimane? 6? Oramai 13. È brutta roba. Non lo so, vuoi non arrivare a 1000? 1000! Io... Ma 1000 vince! Io dopo tutta questa roba mi darei veramente la musica. Anche se... E anche, c'è anche l'applicazione. Così. Concludiamo con Android, così. Stasera che è la serata di Android, GTAB ha rilasciato l'applicazione ufficiale sul Google Play Store. Interessante. Bene, niente così. Vabbè, molto. Non cagate le mie news, che sono le uniche news della serata intanto. È interessante. Veramente molto interessante. Mi puoi passare la del whisky, grazie. Abbiamo il liquore alla liquirizia. Ah. E quindi liquore alla liquirizia, eccellente. Intanto che vi facciamo ascoltare Karma Fish con Where Do You Go? Sorseggiare. Stai Karma, Yeah. Opencast Alpha numero 28. Grandi notizie stasera, grande pubblico. Sì, grazie, sì, grazie. Sì, ma io non ho mica capito perché tu entri con gli applausi. Perché io sono più bello. Allora, voglio provare anch'io. Allora, parliamo di Windows 8. Un pubblico attento alle esigenze della comunità. Ai, ai, ai. Benissimo. Parliamo con le partiamo con le notizie interessanti. Perché fino adesso abbiamo fatto solo cazzate. Abbiamo solo allora, detto, già, una manica di queste. Saranno 27 puntate buone. Ma io sono ancora conoscete qua. Jolla? Sta Jolla? Sta Jolla. Yeah. Jolla è una startup. Una startup con 6S. Sono quelli che lavoravano alla Nokia sostanzialmente. E hanno detto, ma a noi Migo piaceva. Piaceva. Ma perché dobbiamo buttarlo via? E allora hanno detto, vabbè, facciamo una bella cosa, apriamo una startup, pam, telefonini con Migo per tutti. Sono in Cina a trattare, da quanto ho capito. Sono in Cina, stanno trattando e faranno uscire telefonini con Mego. Che, ricordiamo a tutti, adesso Migo ufficialmente, anche lì, anche sul sito di Migo vi rimandano a quello di cui avevamo parlato e che nessuno mi dava credito. Tutti, ah, oh, boom, ma va, cosa dici? Morale, Nemo Mobile, derivato di Mer. Sta diventando peggio una telenovela, sì, la storia di Migo. Figlio di? Figlio di Knorr. Ecco, esatto. Knorr. Senti, ma se vuoi del credito ti posso dare una mano. Cercate Nemo Mobile. Nemo Mobile. Senti, a proposito, ma cosa alla pensi? Ricerca di Nemo. Sì, mobile. Esatto. Mobile. Sì, se dovessimo veramente spaccare con Migo, cioè, quanto li devono vendere i terminali? $49, perché... Con Android a $99 sul mercato, che cavolo se lo compri? Sì, ma Migo è Migo, Migo è figo. Sì, ho capito che è figo, Migo, però cazzi. Tu c'hai un Play Store. Devi essere nerd. Devi essere nerd. Rimarrà una roba di nicchia. Mondo è pieno di nerd. Facciamo allora, cioè, qua ci sono almeno 5 acquirenti in questa sala ci sono. Almeno. Cioè, io direi, facciamo una console. Poi se è brutta ci dicono, è una Sega. È proprio quello che volevamo. Abbiamo fatto rinascere. Hai cercato l'attacchino per... La mitica. Per la notizia. Per che console? Per la console... Sega! Ah. Ce l'ha fatta, rumorista, buongiorno. Grande, rumorista veramente, veramente... Ciao mamma. Sei in televisione? No, non è vero. Guarda come si diverte. Non ti vedono, quindi anche se sei vestito male non ti preoccupare. Ma a proposito di console, invece vestito? Di Sega... Ma veramente la maglietta è davvero figa. Ma la console, quella che è andata così bene su Kickstart? La Phantom? La Ouya? No, quella Ouya. Ne abbiamo parlato prima di Ouya. Si chiamava Phantom. Ma arriverà. Allora, arriverà nel 2013 tendenzialmente. Tendenzialmente, ma l'abbiamo detto anche poco prima della pubblicità. Ah, io non c'ero. Come non c'eri? No. Ma allora... Oddio, chi era? Scusate, ma visto che la fine del mondo è prevista per il 21-12-2012, non è che stanno promettendo un po' tutti nel 2013? Cioè, tipo mio zio si è comprato la Panda, deve cominciare a pagarla dopo il 2012, no? Quindi sta sperando che effettivamente finisca tutto. È la console, cioè, per gli zombie. Cioè, scusa, è una Panda. Anche io ho detto, ma scusa, non ti godi... Andare in paradiso con la Panda. Non te la godi nemmeno questa cavolo di Panda se finisce tutto, no? Ma già, voglio dire, già che c'eri poteva puntare una macchina magari... No, ma lo facevano solo per la Panda, mica scemo. Ecco. Hanno rilasciato loro... Transmission 2.6. Oh. Evviva! Così. Ma che storia, veramente. Evviva. Evviva, evviva. Ecco. Evviva! Lo rifacciamo? Sai, no, bisogna dire dagli credo che non è facile, perché ci sono tanti bottoni. Tanti, esatto, bottoni. A proposito, veramente, di cambiamenti di non nome. Sai quale scacciare. O di bottoni. Cambiamenti di nome. Attenzione ai cambiamenti di nome. Prego. Vai. Stavamo parlando di Mandriva. Mandriva. Mandriva chi? Quella che una volta era Mandrake. Ma soprattutto, sapete chi è che usava Mandriva? Lo sappiamo. Il rumorista, ragazzi. Sì, ma come facevi a usare Mandriva? Dici qualcosa. Niente. La installavo e la usavo. Com'era la tua esperienza con Mandriva? Raccontaci qualcosa. Ma no, la domanda vera... Ho sempre litigato con i pacchetti, in realtà. E perché non usavi i server russi? È vero. Usavo i repo dei MIB. Dei MIB? Sì, Men in Black. No, e Mandriva i qualcosa. I qualcosa. Backport, forse. Ah. Backport. Però non erano russi. No, non erano italianissimi. La lista va per Italia. Ah, ecco. Back cacchio! Door. Attenzione! Back office. Becchino? Back Namara? Beccone? Oh, sorry, back one. Beccaccia. Back di questo. Because I'm back lately. Ah, sorry. After all, ultima anche... notizia prima, no, di salutare. Cambia il nome di Mandriva. Di la... Ma cosa è successo a sta Mandriva? Cambia il nome. E come la chiama? Allora, è successo questo. Una volta era Mandrake. Ok. Okay. Tanto tempo fa. Tanto tempo once fa. Once upon a time, there was Mandrake. Poi si è fusa con questa distribuzione di cui nessuno si ricorda il nome. Connettiva. Una posizione pilotata. Esatto. Ma solo perché dovevano cambiare il nome. È per quello che si sono fusi. And then it became Mandriva. Esattamente. Tutti Drake, tutti, sì, il rumorista fa, sì, non vero. Avete sentito il rumorista, che la cosa è abbastanza. E com'è che direbbero i giapponesi? Sti cazzi. Esatto. Però sti quassi. Chupa! Drake. Sì. Chupa la palla. E insomma, vabbè. Non doveva partire per il Giappone quello lì. Non lo so, lascia perdere. Insomma, cosa stavo dicendo? Stai parlando di connettiva. Poi a un certo punto hanno detto: no, basta, qui non abbiamo più soldi. La chiamiamo... più cos'è che hanno detto di preciso? Ha detto: no, basta, qui non abbiamo più soldi, non c'ho più voglia. Mi sono la chiamiamo stamattina. Ubuntu. Non ci sono più le mezze stagioni. Non ci sono più le mezze stagioni. Tante cose. Non esiste più la l'internet. Religione. La religione. L'interweb. L'interweb. Allora la gente cosa ha fatto? Ha detto: facciamo un fork gestito dalla comunità. Così, forchiamocelo. Così. E lo chiamiamo. Forco io. Fork one, forcone. Ah, forco io. Ah, è sempre onomatopeica questa, eh? Sì. Stasera è la serata dell'onomatopeica. E vabbè, allora, e si chiama... come si chiama? E vabbè, siamo propertissimi. Siamo sul memoria pezzo. Stasera che... Siamo... Non è Mageia. No, attenzione. Mageia è... ce lo dice il rumorista. Mamma mia. È un fork di Mandriva. E allora stavo dicendo... No, infatti, no. Allora avevo fork. Ragione. No. Vedi che non stai e attento. E basta con questi fork. Ok, non ero attento. E okay. Insomma, la comunità ha fatto Mageia. Ha detto, facciamo Mageia. Saranno andati avanti quanto? Un bel po', perché poi è uscito il vicino, insomma, basta. Anche su Italia 1, eh? Domani mattina devo andare a lavorare. E niente, allora nel frattempo... Mamma mia. Perché non è arrivato un certo Johnny, è quasi Mageia per Johnny. Perché è arrivato in ritardo? Sì, assolutamente. Ecco. Grazie. La società che aveva in mano Mandriva ha detto: no, ce la possiamo fare. Li hanno abbandonati tutti, hanno ricominciato. Erano tutti, tra l'altro, tutti gli sviluppatori seri erano andati a Mageia. Nel frattempo. Però hanno detto: no, noi possiamo andare avanti, però non possiamo più andare avanti con questo nome perché non è più nostro. E allora adesso stanno cambiando perché il nome. Perché dovevamo pagare il caffè. E che fai? Sono dei russi. Sì, adesso sono tutti russi. Da. Sì, da. E quindi il nome ancora non si è scelto, se non sbaglio. Vodka. Pensavano Vodka Linux. Mi pare che sia Vodka. Dovrebbe vodka. Diventare la distribuzione vodka. MiG-29. E niente, questa oppure è la storia. Oppure Ottobre Rosso. Cacciamelo. Sì. Bene, allora, questo è stato veramente un interessante momento di Mandriva. Esatto. Vogliamo procedere pure... Ma possiamo, secondo me, a questo punto, Mister visto che fire, si avvicina l'orario... potremmo provare anche a vedere se l'uomo di Distro Voce è pronto a fare il suo lavoro, insomma. Un attimo che vado a chiamarlo. Allora! L'uomo di Distro Voce! Scus, bell'uomo! Scusso! Ma dica, ci sarebbe da fare l'ancolo. L'ancolo? Sì, è un po' smussato. Un po' smussato ultimamente. Hanno rubato gli eguini miei. Popacco. È iniziato? Che bello! Buonasera, benvenuti all'angolo di Distro Watch. Stasera ho parlato direttamente nel microfono, così se no mi dicono non si sente una fava quando parlo. Andava bene? Una fava, ma andava bene. Ma no, dai. Ma ti piace il microfono, bene. No. Di la verità, no. Però, molto è un bel microfono. Allora, non è che è uscito molto, cioè siamo qua a parlare del... È uscito un sacco di roba su DistroWatch, attenzione. Abbiamo CentOS, la versione nuova. Centos. Presenta gioca con noi il signor Nicola Di Bari. E tutti che alzavano le mani presi bene. Quanto costerà questa lavatrice? Bah, Comunque era un gioco veramente onesto, ragazzi, perché non è facile. Non è facile. Cioè, basta, adesso da un milione tutti. Poi è uscita un'altra distribuzione che si chiama OS4. OS4! Non funziona, si è rotta. E questa distribuzione ricorda molto quello che era OS4. Ma comunque, vabbè, è una distribuzione stranamente a pagamento. Non si sa per quale motivo. La danno. È una brutta cosa, sostanzialmente. Ma che caratteristiche ha? È a pagamento. È a pagamento. È basata sul Red Hat. No, che quella è un'altra roba. Ho letto la news sbagliata. Buonasera. Passiamo alla prossima. È uscita la nuova versione di OpenSUSE 12.2 Release Candidate 1. Allora, la nuova versione di OpenSUSE Release Candidate. Va bene. E poi è uscita una cosa che fa molto comodo ai vari sysadmin e chiunque spara, utilizzi spara. Chiavette per fare cose quick and dirty. È uscita la partition. Ma no, Phoenix. C'è anche partition. Phoenix. Sì, Phoenix però è un pochino più importante della tua. Va. Phoenix. Mai sentito Phoenix? La usa solo lui. Ah, è comodissimo. È bellissimo. KIOS. In realtà la fa lui per quello. E poi è uscita quella che piace al nostro simpaticissimo presidente, che è Parted Magic. Con un file manager che com'è che si chiama? Ganzissimo. Star cacchio. Sì. Stark Industries. C'è Star Tony Stark. Ma cos'è una roba? È ganzo, Ma viene dalla distribuzione di Corel? Molto più bello. Perché Star di questo. Smettila. Vado un attimo a cercare. Ecco. A proposito, stavo aspettando. No, comunque è bellissimo quel file manager lì. Perché ti apre le finestre a caso. E poi quando fai copia e incolla. Le copia a caso. Non lo so, quando tu incolli il file da. Da lì le mette là. Da milioni di tera. Ti viene fuori. Plup, una barretta sotto con percentuale che si sposta. Ed è uscita anche GPA. Funziona comunque. Questa liquirizia è veramente buona, presidente, sai? È l'alcol che un pochino ti disturba. Ah. Vai avanti con le news. È uscita anche G-Party, oltre a Parted Magic. Escono sempre in copia. Sempre in coppia queste qua. Come carabinieri. Non se ne può più, non se ne può più. E poi abbiamo le ultime due news che sono il rilascio di FreeBSD 9.1 Beta 1 e la conseguente PCBSD 9.1 Beta 1. Va bene. E anche un Scientific Linux. A questo punto. No, mi ne frega proprio un caso. È stato bello. No, scusa, ma bisogna fare la top 10. La top 10 che parte come al solito da Gentoo. Gentoo che è al 21esimo posto. Ma no, cioè, scusa, la top 10 sarà al decimo. Partiamo sempre dal 26. Ci piace un po'. È al 21esimo posto. Al decimo posto abbiamo. Attenzione. PC Linux OS. Che è in risalita. Al nono posto abbiamo Pappy Linux. Importante. All'ottavo Centos. Al settimo posto abbiamo Arc. Però che comunque ne sa. Al sesto posto abbiamo OpenSUSE. Seguita al quinto posto da insomma le cinque posizioni iniziali sono sempre quelle, che sono Debian al quinto posto, Fedora al quarto. Al terzo posto abbiamo Mageia, ne stavamo parlando poco fa. Secondo posto abbiamo il solito, ormai eterno secondo, Ubuntu. E adesso attenzione, al primo posto. Al primo posto. Al primo posto abbiamo Lunar Linux. No, ho sbagliato, è dal basso, scusate. Allora, al primo posto abbiamo Linux Mint, ovviamente. La Mint. Di cui ricordiamo, attenzione, che è appena uscita la versione 13 KDE Edition, Release Candidate 1. Con KDE Edition. Con KDE, sì, esattamente. Lusso. Mint KDE. Gasata. È interessante. La gasata. Sì. Va bene. Ok. Va bene, a questo punto direi che possiamo anche chiudere l'angolo di DistroWatch. Ringraziamo l'omino di DistroWatch che parte dal paese di DistroWatch tutte le volte apposta per venire qua. Grazie Tony Stark. E non è facile. Tony Stark. Sì. Che non rivelare la mia identità. Scusa. Io sono Iron Man. Certo. Ciao Marvel. È sempre bello la sua fidanzata Marvel, Ma vabbè, l'ultima cosa, solo una cosa devo dire, solo una. Ma avete visto che casino è successo a Como su OpenStreetMap? Che hanno celato tutto, ma OMG amazing. Quando sono uscite le cacche dai tombini? No. No, perché c'era Matteo che le mappava. No, il problema grosso è che adesso Matteo sta riscrivendo tutto il centro di Como. Date una mano a Matteo a ridisegnare il centro di Como. Fatelo come più vi aggrada. Fontanelle, piscine. Ma strade? Smettila, scusa. Tutta questa, vedi, sei troppo, troppo in strada. Vabbè, la notizia è che sono stati cancellati alcuni dati da OpenStreetMap per via del cambio di licenza che c'è stato qualche Cambiamelo. Tempo fa. Per cui bisogna andare a chiudere i buchi. Per cui, ragazzi, se non avete niente da fare in questi giorni dove si avvicina l'estate, andate a tappare i buchi. Andate a tappare i buchi. Dove siamo, sapete bene. Siamo già in estate. Cosa avrà voluto dire? E con questa veramente una grande massima. Guarda che adesso il Papa non ci ascolta più. Perché prima ci ascoltava. Ciao Benedetto, scusaci. Ciao Benny. Ciao Benny. Ciao Benny. Ciao Benny. Ciao Benny. Ciao Benny. Dai, cazzo. Ero umorista. Sì, ma dovevi capirlo al ciao Benny, cacchio. Ciao Benny. Veramente, ma dove l'avete trovato il rumoreggiatore lì? Veramente. Ciao Benny. Ciao Benny. Ciao. E con questa chiudiamo Opencast Alpha. Olè. Vuoi salutare qualcuno intanto? Sì, nonna. Vengo a mangiare le frittelle, ciao. My lips were a seal. I tried to talk, but my mouth just wouldn't move. Thousands of things to say, but to my growing dismay, I couldn't find a single line I could approve. In an artist's way. Movies and more, and I will find a thousand lines you'd like to hear. Answers I need to know. Do you think life's just a show? And if I play you Johnny Cash, will you draw near? I'm afraid I will never reach you as long as I can speak out.